Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Continua anche in questo programma il viaggio che Radio 24 sta compiendo in quello che abbiamo chiamato l'Europa al bivio, e quindi Grecia intesa come confine con la Macedonia, idomeni, e Grecia intesa come Atene, alle prese con una situazione economica difficilissima. E con gli sviluppi di oggi, la Macedonia ha chiuso, come sapete, già nei nostri GR24 i confini per i migranti, e dalla scorsa mezzanotte non accetta più profughi nel centro di accoglienza. La Macedonia ha avuto gioco facile nel dire che è motivato dalle decisioni di Slovenia, Croazia e Serbia, laddove le prime due sono forse più responsabili ancora. La rotta dei Balcani è stata praticamente definitivamente chiusa. E da questo punto di vista anche il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha detto che il flusso irregolare è finito, non è una questione di azioni unilaterali ma una decisione comune ai 28. Nel frattempo parleremo di Europa, anche perché la Commissione Europea sta per inviare 5 lettere sui conti pubblici a Italia, Romania, Finlandia e Croazia, e al Belgio anche. Alla Spagna invece arriverà una raccomandazione formale. Infatti la Commissione Europea ha comunicato le proprie preoccupazioni rispetto agli obblighi di bilancio a Spagna, Italia, Belgio, Croazia, Finlandia e Romania. Abbiamo individuato 6 paesi le cui strategie di bilancio potrebbero rischiare di condurre alla violazione degli obblighi previsti dal patto. C'è ancora tempo a sufficienza, aggiunge Bruxelles, per adottare le misure correttive necessarie. E anche qui cercheremo di capire. Il vice ministro Morando oggi ha detto che qualche aggiustamento marginale ci può stare, ma certamente non vi sarà la manovra correttiva. E tra l'altro ha detto del rapporto dell'Unione Europea si evince come le cose stiano andando nella direzione giusta. La Commissione deciderà a maggio, ma a mio parere la discussione proseguirà sulle linee di fondo della politica fiscale 2017-2019 e anche più avanti. La vera preoccupazione è il rischio deflazione, e ricordo che domani c'è l'atteso incontro della Banca Centrale Europea. A questo proposito capiremo se Draghi, nonostante le molte resistenze che stiano arrivando dalla Germania, andrà avanti con un QE, quindi con quello che chiamiamo stampaggio di moneta, creazione di liquidità ancora più intenso. Per quello che riguarda invece gli altri temi, ci occuperemo di nuovo della Popolare di Vicenza. Perché ci sono sviluppi anche sulla politica di remunerazione degli ex vertici e in parte attuali vertici, perché non sfugge a nessuno che in quel disastro che è stata la gestione della Popolare di Vicenza, su 18 membri del nuovo consiglio 13 appartengano alla vecchia gestione e in alcuni casi appartengono da anni. Ora, qui non è il problema di essere ipergarantisti. C'è una banca che ha sostanzialmente bruciato 5 miliardi di risparmi, non di valore di borsa, che uno può sempre aspettare che possa ritornare il titolo a crescere, ma di risparmi già bruciati. Sono 42 mila euro per ogni socio della banca. Abbiamo fatto il calcolo tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca, lo ha fatto solo 24 ore, sono quasi 10 i miliardi di risparmi bruciati in un asse che va da Vicenza a Montebelluna. Ora, c'è il dovere, oltre che il diritto, di chiedersi come mai avvengono certe remunerazioni anche nel 2015, ultimo anno della vecchia gestione, e come mai 13 su 18 siano ancora in questo consiglio. Perché poi l'idea che alla fine i banchieri non paghino mai, e per banchieri intendo dire non solo gli amministratori delegati e i presidenti, ma anche i membri del consiglio di amministrazione e quindi i consiglieri, e anche il collegio sindacale, perché qualcuno qualcosa non ha visto qui. Insomma, poi è difficile contestare l'idea che i banchieri così definiti abbiano sempre una situazione di di privilegio. Tutto previsto negli accordi, quello che volete, ma se è una situazione straordinaria, lo è anche da questo punto di vista. Dopodiché uno può aggrapparsi a qualunque tipo di specchio, a qualunque, diciamo, può fare la zecca garbugli quanto vuole, ma sullo sfondo resta il tema che hai a che fare con migliaia, oltre 30.000 soci che hanno perso tutto o il 90% di quello che avevano come azioni. Resta il tema che l'antitrust ha aperto ieri un'inchiesta per capire, e glielo confermiamo già, ha perquisito le sedi da Popolare di Vicenza assieme alla Guardia di Finanza per capire se esistano queste presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti della Popolare di Vicenza, che avrebbe condizionato l'erogazione di finanziamenti ai clienti, mutui, prestiti o aperture di un conto corrente, a patto che acquistassero azioni o obbligazioni convertibili in azioni da parte della banca, anche a quel punto concedendo somme superiori agli importi richiesti. Quindi se accettavi di comprare azioni o obbligazioni che potevano diventare azioni, uno ti erogava un mutuo un po' più alto, un prestito più alto e via così. L'antitrust vuole capire se, le chiama presunte, noi modestamente dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto il dubbio non ce l'abbiamo, avveniva così in Popolare di Vicenza e anche in Veneto Banca, non sono le uniche, ma sono le due in questo momento che hanno distrutto il 90% del valore delle azioni, ed erano due banche che non erano quotate in borsa. So già che qualcuno mi dirà, ma anche altre banche popolari lo fanno, banche non... Ho capito, con la differenza che se il titolo però è quotato in borsa, almeno tu puoi venderlo quando vuoi, nel senso che un compratore si trova sempre, il titolo è liquido, come si dice in gergo. Quando hanno provato a vendere gli azionisti di Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, allo sportello gli è stato risposto: scusatemi, non troviamo un compratore, ritorna, ritenta, sarai più fortunato, solo che non è mai stato possibile, quindi è doppiamente grave. Parleremo di questo, ma anche delle perquisizioni della Guardia di Finanza e di quello che sta avvenendo sul fronte Credit Suisse, che è indagata a Milano. La Guardia di Finanza sta effettuando verifiche da tempo, non da oggi, però oggi abbiamo saputo che il gruppo Credit Suisse come soggetto è indagato a Milano per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell'inchiesta che è stata aperta un anno fa, che ha al centro la maxi frode fiscale. Che cosa è, qual è l'accusa? Che Credit Suisse su almeno 13.000-14.000 clienti gli aiutava a portare all'estero i soldi per un totale di 14 miliardi di euro, facendogli sottoscrivere false polizze assicurative. E cioè queste false polizze assicurative e poi che venivano sottoscritte con operazioni effettuate tra Liechtenstein e le isole Bermuda permettevano di portare i soldi oltre il confine senza dichiararli al fisco italiano. Le Fiamme Gialle stanno ancora effettuando accertamenti sui conti esteri di questi 13.000-14.000 clienti. I reati ipotizzati sono frode fiscale, ostacolo all'attività di vigilanza, riciclaggio e abusivismo finanziario. L'indagine, ricordo, scattò a metà, diciamo, del dicembre del 2014. Questo faccio notare che i 13.000 clienti non sono supposti, sono quelli che la Guardia di Finanza avrebbe già identificato, cittadini italiani che hanno trasferito all'estero oltre 14 miliardi di euro. E anche di questo parleremo dell'Europa e poi appunto la Grecia, con un'intervista al vice ministro alle finanze greco, perché ripeto, il tema non è solo la Grecia come grande serbatoio e bacino di accoglienza dei migranti, con un trattamento molto molto freddo da parte del resto dei paesi europei, più interessati a chiudere le loro frontiere che a dare soldi alla Grecia, più interessati a dare soldi alla Turchia che dare soldi alla Grecia, ma anche la tenuta stessa delle finanze pubbliche greche. Per quello che riguarda l'ultima notizia della prima parte, cioè la borsa, oggi è positiva dell'1,20% Milano, più 0,50 Parigi, più 0,30 Francoforte e più 0,20 Londra. L'America guadagna sul Dow Jones 0,23%. Bene, molto bene oggi Mediaset, poi ne parleremo, più 7%, Unipol più 3,60%, Enel più 3,5% come Moncler, e il 3% lo guadagna anche Enel Green Power, il 2% rialzo di Azimut di Telecom Italia. Male il Banco Popolare meno 2,70%, Anima Holding meno 2%, Buzzi Unice meno 1,5%, Monte dei Paschi meno 1%. A proposito di Banco Popolare, faremo anche il punto perché Oggi c'era l'incontro decisivo dei numeri uno, da un lato Giuseppe Castagni, dall'altro per il Banco Popolare Pier Francesco Saviotti, a Francoforte con gli esponenti della Banca Centrale Europea per capire se ci siano, se siano stati chiariti tutti gli elementi o invece vi siano ancora aspetti su cui la BCE ha dei dubbi che potrebbero rischiare di fare saltare l'operazione o arrestare l'operazione. 349-238-6666 per gli sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. I 100 secondi di oggi, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, si occupano proprio di un dato italiano, ossia lì è stato oggi diffuso il dato sui primi tre mesi, e prevede un proseguimento dell'attuale fase di moderata crescita, variazione del PIL reale attesa leggermente positiva, più 0,1%. In questo modo la crescita acquisita per il 2016 è allo 0,4%, cioè se non crescessimo negli altri trimestri faremo comunque 0,4%, a fare da traino soprattutto i consumi privati, mentre anche in Italia come in altri paesi è rallentata la domanda estera e gli investimenti pubblici risultano piatti, quindi diciamo variazione sostanzialmente nulla. Su questo dicevi 100 secondi Radio 24, la firma di oggi di Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Come al solito, quando si parla di prodotto interno lordo viene fuori la fotografia in chiaroscuro dell'economia italiana. L'Istat la ripropone oggi e ci avverte che le prime stime di crescita del PIL nel primo trimestre 2016 segnalano un più 0,1%, il solito maledetto 0, che porta la crescita acquisita per quest'anno allo 0,4%, purtroppo molto al di sotto delle previsioni del governo, che conta su un PIL del 2016 che dovrebbe chiudere almeno a più 1,3%. E d'altro canto, proprio pochi giorni fa l'agenzia di rating Fitch aveva abbassato le stime di crescita dell'Italia all'1% a causa delle conseguenze del rallentamento dell'economia globale. Tuttavia c'è una nota positiva in questo dato diffuso oggi dall'Istat. Ci sono segnali positivi che provengono dai servizi e per la prima volta anche dall'edilizia. Non dimentichiamo che l'edilizia è il settore più falcidiato dalla crisi e la sua ripartenza è decisiva per lo sviluppo anche della domanda in tutti gli altri settori. Scendendo ancora di più nel dettaglio, l'Istat ci avverte che all'incremento del PIL contribuiscono positivamente i consumi privati, a fronte di un apporto ahimè negativo della domanda estera e dei consumi pubblici. Mentre, e questa è una nota davvero dolente, la dinamica degli investimenti risulta sostanzialmente piatta. Senza investimenti la ripresa non riparte come dovrebbe, questo è noto. E sarebbe davvero un peccato ora che cominciano a consolidarsi segnali positivi anche sul mercato del lavoro, perché, ed è bene ricordarlo, il Jobs Act ha aiutato la creazione di 450.000 nuovi posti di lavoro in un anno. Se si pensa che la lunga crisi ne ha bruciati almeno 1 milione, effettivamente siamo di fronte a un buon risultato. Guai a sprecarlo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora si chiariscono, noto di servizio, Alberto Orioli è vice direttore al Sole 24 Ore, non a Radio 24, lo chiarisco perché qualcuno non aveva capito. Comunque andiamo avanti con gli altri temi. Dicevo della parte italiana, al di là dell'Istat, delle stime dell'Istat, la Banca d'Italia oggi fa sapere che le sofferenze bancarie sono ancora cresciute, cioè i crediti che le banche non riescono a riavere indietro a gennaio sono cresciute del 9%, che è tanta roba, a 202 miliardi sono le sofferenze lorde, però insomma anche la Banca d'Italia deve decidersi, parliamo di lordo o di netto, basta avere un unico dato. 202 miliardi sono le sofferenze lorde. Il ministro dell'economia Padoan ha fatto notare che negli ultimi 3 anni le esecuzioni immobiliari giudiziarie derivanti dal mancato pagamento delle rate dei mutui sono in calo. Nel 2015 sono scese a 55.000 contro le 71.000 del 2013. E quindi insomma, il motivo perché ne parla Padoan, perché è tornato sul tema di come le banche potranno riavere indietro la casa, data garanzia sui prestiti, sui mutui in primo luogo, dopo la famosa polemica, le 7 rate diventano 18 rate. E Padoan è tornato sulle norme sui mutui nel decreto attuativo, che recepiscono, lo ricordo, la direttiva europea. Dice che il finanziatore è chiamato ad adottare procedure apposite per i consumatori in difficoltà e esercitare ragionevole grado di tolleranza prima di avviare le procedure. Le norme attuali consentono la sospensione per 18 mesi delle rate dei mutui in caso di alcune condizioni del debitore. Moratoria, famosa moratoria sui mutui, e il finanziatore, cioè in questo caso la banca, non vi si può opporre. Con riferimento alle misure di sostegno ai consumatori si ricorda anche l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 che consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui ipotecari erogati per l'acquisto dell'abitazione principale al verificarsi di determinate condizioni. Ove tali condizioni ricorrano, la sospensione il finanziatore non vi si può opporre. Ricordo poi che l'articolo 120, introdotto nello schema di decreto legislativo che ho citato, approvato in via preliminare al Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016, è volto a disciplinare i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede all'avvio di procedure esecutive, in attuazione di quanto dispone la direttiva europea 2014/17. Ricordo tra l'altro che in questa normativa il finanziatore è chiamato ad adottare procedure apposite per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà, che permettano l'esercizio di un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di esecuzione della garanzia. Allora, rispondo a alcuni sms a partire da chi mi dice: lei conduca la trasmissione, non rispondo agli sms, abbia pazienza, conduco la trasmissione anche rispondendo agli sms, poi i toni, adesso, cos'è? La dichiarazione di guerra alla Polonia. Allora, no, ci sono lo 0,1%, nessuno ha detto che è una gran crescita, nessuno ha detto che è una bella crescita, nessuno ha detto che è una buona crescita, abbiamo parlato di crescita moderata, modesta, non so cos'altro dobbiamo dire. È vero che lo 0,4% che l'Istat individua come crescita acquisita vuol dire che se i prossimi trimestri avremo variazione zero, dovessimo avere variazione zero, faremo comunque 0,4. Certo che se si va in recessione lo 0,4 non è garantito, siamo d'accordissimo. Crescita acquisita non è crescita garantita, siamo d'accordo, vuol dire solo che in questo momento, se non ci fossero altre variazioni, pari a zero, quindi avremmo lo 0,4%. Nessuno sta dicendo che c'è una ripresa vera e propria. Guarda, non lo dice neanche il governo, figuratevi se lo diciamo noi, per favore, su. Però ripeto, tifare per il tanto peggio tanto meglio non ha senso. Per esempio oggi c'è un dato della raffinazione italiana. Allora, siccome sono tutti indicatori di base, anche quanta benzina viene raffinata ti dice se sta un po' ripartendo l'economia o no. Allora, dopo 5 anni consecutivi di calo nel settore della raffinazione italiana, per la prima volta c'è stato un aumento nel 2015, era dal 2010 che non avveniva, delle lavorazioni del 9,6%. Il costo del greggio importato a gennaio 2016 costava il 34% in meno rispetto allo stesso mese del 2015, con un effetto che, ripeto, è solo per un terzo sul prezzo finale della benzina, perché il 70% sono accise e IVA. Un ultimo dato che riguarda le banche, visto che adesso di questo ci occupiamo: salgono a gennaio i titoli in portafoglio, i titoli di Stato in pancia nel portafoglio delle banche italiane. Sono salite a 396 miliardi, di cui 280 miliardi sono BTP, contro i 389 miliardi di dicembre. Però attenzione che nel gennaio del 2015, quindi un anno prima, il valore era anche più alto, era di 416 miliardi. Allora, fisco e truffe, perché mentre un mese dopo il caso Apple, che ha chiuso il contenzioso con il fisco pagando, accordandosi per pagare 320 milioni di euro, è stato inviato un altro verbale di accertamento da 300 milioni di euro ad Amazon, quindi lo ha fatto il nucleo di polizia tributaria di Milano ad Amazon. 5 manager rischiano il processo per frode fiscale in attesa che la procedura faccia il suo corso. L'iscrizione sarebbe avvenuta nei giorni scorsi da parte del Dipartimento contro i reati societari guidato dal procuratore aggiunto milanese Francesco Greco. Restiamo in tema di indagini e di inchieste, perché dopo il meteo e la pubblicità partiremo con Credit Suisse. Quasi 14.000 clienti italiani che grazie a Credit Suisse avrebbero portato illegalmente, eludendo il fisco, 14 miliardi di euro. Come? Con il sistema delle false polizze assicurative, e a questo punto è indagata la stessa società come soggetto giuridico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ci sentiamo fra qualche minuto. Focus Economia. Allora, partiamo con una pagina di inchieste, però lo dico anche a chi scrive, guardate che poi non si può chiedere che vengano punite alcuni comportamenti e poi non ci occupiamo quando vengono puniti o comunque investigati. Partiamo con Stefanelli del Sole 24 Ore. Stefano, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, questa indagine, diciamo, è nata oltre un anno fa, non è materia fresca. Qual è la novità di oggi su Credit Suisse? Esattamente il 16 dicembre del 2014 sono state fatte le prime perquisizioni all'interno della sede di via Santa Margherita di Milano del Credit Suisse. Quello che è l'ultimo atto è la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della persona giuridica Credit Suisse AG, che è in buona sostanza la filiale dell'Liechtenstein del Credit Suisse, su cui si concentravano appunto le anomalie riscontrate dagli uomini della Guardia di Finanza, che si sono presentati in 50 alla sede di via Santa Margherita del Credit Suisse di Milano. E la novità è essenzialmente questa, in buona sostanza. Ecco, però ripercorriamo, perché ce lo chiedono anche gli ascoltatori, qual è l'accusa. Allora, che le banche, e in particolar modo svizzere, visto che veniamo da anni di UBS, di liste falciani, di quant'altro, avessero, soprattutto quelle svizzere, si fossero anche specializzate, diciamo, nell'agevolare il fisco dei vari correntisti, nell'eludere il fisco, lo sappiamo, non è, scopriamo l'acqua calda. Altra cosa però a dire, intanto il numero mi impressiona, 13-14 mila clienti per 14 miliardi di euro, di cui 8 finiti alle Bermuda, sembra. 8 di questi miliardi di euro non 8 clienti, finiti, 8, no, miliardi. 8 miliardi di euro, sì. Ecco, e l'altra cosa è appunto è il giro, perché c'è il Liechtenstein ma ci sono anche le Bermuda, cioè qual è, da quello che si è capito, il trucco messo in piedi, il maneggio messo in piedi da Credit Suisse per fare in modo che questi portassero i soldi all'estero senza però che questo risultasse come, perché altrimenti scattano i controlli. Se io prendo 1 milione di euro, lo sposto in Liechtenstein, vengo segnalato. Come facevano? Allora, cominciamo dall'inizio. Allora, innanzitutto l'inchiesta parte da una verifica ispettiva della Guardia di Finanza all'interno, e quindi non da esposti esterni. Che cosa si sono accorti? Di cosa si sono accorti i finanzieri? Si sono accorti che esisteva una serie di strumenti finanziari che erano stati battezzati Credit Suisse Life and Pension, appunto AG, che erano delle polizze miste di natura assicurativa e finanziaria, su cui la clientela italiana veniva esortata, comunque supportata, ad investire. Dopodiché questi soldi che venivano versati sulla società dell'Liechtenstein venivano a sua volta deviati e dirottati in un sistema di società ramificate, in particolare nei paesi dei paesi fiscali. Però se io verso dei soldi in Liechtenstein normalmente vengo segnalato. In questo caso perché si permetteva l'elusione? Perché è una polizza assicurativa? Ma è qui il punto, il lato fraudolento della questione, è qui il punto che si accentrano le indagini che sono seguite direttamente da Francesco Greco, che è il procuratore aggiunto del primo dipartimento della procura, e da Gaetano Ruta, che è un PM che è specializzato appunto in reati fiscali. È appunto questo l'interrogativo su cui si concentra l'attenzione degli investigatori, in buona sostanza. Cioè il fatto che beh, io volevo capire il meccanismo per cui tu riesci a sottoscrivere una polizza e non risultare... Fin qui il meccanismo è normale, tu sottoscrivi una polizza assicurativa di natura finanziaria e i soldi vengono trasportati in Liechtenstein. Da qui si perdono le tracce in rivoli che evidentemente non sono chiari. È qui che si concentra appunto il focus. E la novità è appunto che non indagano solo persone fisiche ma la stessa società. Da quello che ho capito, Stefano, però la Guardia di Finanza ha già identificato questi, non è un'ipotesi sui 13-14 mila? No, non è affatto un'ipotesi, anche perché, come ti dicevo, si sono presentati in 50 i militari e quindi hanno setacciato ben bene tutto quello che era l'archivio unico informatico e la clientela. E da questo momento che cosa ci sarà? Probabilmente ci sarà, anzi già sicuramente sarà già cominciata, l'esame delle singole posizioni dei singoli clienti e di quello che eventualmente sia stato inserito all'interno del quadro RW come investimenti disposti all'estero, piuttosto che non l'eventuale adesione alla voluntary disclosure. In questi casi evidentemente la posizione di questi clienti verrà diciamo sfumata sotto profilo penale. È invece plausibile che a una diciamo una inchiesta contro ignoti, come era partita all'inizio, a un'inchiesta con un solo indagato nella persona giuridica, possa seguire anche un'inchiesta a carico di amministratori. Sì, tu hai fatto notare che chi di questi poi avesse aderito alla volontà di disclosure è chiaro che avrà, come tu l'hai chiamata, una diminuzione, verrà più sfumata, diciamo, l'aspetto penale. Sì, la responsabilità penale sicuramente sarà più sfumata, anche se sotto il profilo appunto delle sanzioni evidentemente no. È chiaro. Ci sono dei tempi, perché oggi abbiamo visto con questa iscrizione un'accelerata. Tu hai capito con la procura, insomma, se a questo punto l'ultimo tassello che manchi sia anche il coinvolgimento dei manager, oppure... È l'interrogativo che ci poniamo tutti quest'oggi. Quest'oggi le ultime agenzie, le ultime telefonate che abbiamo fatto non rispondono a questa domanda, cioè se ci siano degli indagati e delle persone fisiche. Sembra però certo che essere finita sul ministero della magistratura non sia la filiale italiana, il Credit Suisse Italia, quella con la sede che è stata perquisita, quanto la sede del Liechtenstein di cui parlavamo prima, cioè la Credit Suisse AG, in cui diciamo si allinea la Credit Suisse Life and Pensions AG. Quindi questo è importante, hanno perquisito 50 militari, fanno impressione, insomma è quasi... Sì, perché è una sede sola, quindi sì, hanno perquisito la sede italiana, però diciamo tutto si indirizza sulla sede, anche soprattutto sulla sede del Liechtenstein. Grazie a Stefano Elli, perché mentre questa vicenda, ripeto, attenzione, perché oltre al numero di persone coinvolte e anche il fatto che tu abbia incriminato il soggetto giuridico Credit Suisse, per quanto è Gema, che la dice lunga. Mentre questa vicenda va avanti, ce n'è un'altra che sta facendo infuriare i nostri ascoltatori. Anche qui c'è di mezzo la magistratura. In realtà ieri si è mosso l'antitrust, il programma era praticamente già finito, non siamo riusciti a dare la notizia, e ahimè mi tocca tornare alla vicenda della Popolare di Vicenza. Grazie intanto a Stefano Elli. Qui invece la vicenda è completamente diversa, ne parlavamo anche in apertura del programma. Allora, qui c'è un problema di indagini e di opportunità. Intanto l'antitrust sta indagando, come abbiamo scoperto ieri, su presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti, ossia se tu volevi un mutuo, un prestito, un conto corrente, ti chiedevano di comprare azioni e in alcuni casi ottenevi anche un mutuo e un prestito più alto di quello che avevi chiesto. E poi c'è un tema di opportunità, nel senso, io non so, chiederò aiuto nel ringraziare intanto grazie a Sara Monaci che ci ha raggiunto di nuovo in studio. Insomma, c'è stata sabato un'assemblea tesissima, tutto quello che volete, che ha votato per la trasformazione in SPA, i tre sì chiesti da Iorio. L'alternativa era entrare in una terra incognita, io lo dico anche perché abbiamo ricevuto decine di mail, sms, lettere, bisognava votare no, resto dell'idea. Che fosse meglio e sia stato meglio votare i tre sì, perché in questo momento mollare una banca o perché venga spacchettata o perché venga portata a una procedura fallimentare non mi sembra aria. Lo dico pur capendo l'incavolatura di chi ha perso il 90% dei suoi risparmi, ma vorrei capire con Sara Monaci come sia possibile però scoprire che l'ex presidente, che lo è stato per, se non ricordo male, 13 anni della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, ha incassato 1 milione di euro di compenso nel 2015 per il lavoro fatto. È l'anno in cui, diciamo, l'istituto crolla definitivamente. È lo stesso compenso del 2014, per cui delle due l'una, cioè, nessuno nota una differenza tra 2014 e 2015, oppure c'è qualcosa che non torna. Lì il 2015 è l'anno in cui sono spariti 5 miliardi di risparmi, azzerati praticamente da 62,5 euro, siamo usciti 6,5 euro per azione. Sono 42.000 euro bruciati veramente, non per finta, virtualmente in borsa, che finché non vendi non porti a casa la perdita, veramente non li hanno più, 42.000 euro a testa, a socio in meno. E poi su questo ci sono anche delle cose incredibili. Qualcuno mi dice: faccia i nomi, Barisoni, se ha il coraggio la pagano, ma stia buono lei. Io non so chi paga lei, so chi paga me, e i nomi li abbiamo sempre fatti. Allora, io mi chiedo, su un consiglio che dovrebbe garantire la rinascita della Popolare di Vicenza, su 18 membri del Consiglio di Amministrazione, 13 appartengono a una vecchia gestione. Marino Breganze, al di là dell'età, a 68 anni, è stato vicepresidente per 16 anni, è stato consigliere per 29 anni, ha preso 590.000 euro di stipendio, compreso quello di presidente di Banca Nuova. No? Ma cosa vuoi che garantisca? Che neghi se stesso? Chiedo anche il segretario del Consiglio, Giorgio Tibaldo, 66 anni, è lì da 30 anni, ma può essere che non abbia visto niente? Allora vattene se non sai nulla. E piglia 220.000 euro. Tutta la parte della vecchia gestione, insomma, è rappresentata da questi 13 su 18. Vorrei anche chiudere sul collegio sindacale. Intanto è scandaloso che il collegio sindacale della Popolare di Vicenza venga pagato il doppio dell'ENI, perché vuol dire, i sindaci dell'ENI analizzano i bilanci della più grande società italiana, la Popolare di Vicenza non era così. Ma mi chiedo, il numero uno Giovanni Zamberlan, presidente del collegio sindacale, 200.000 euro di monumento, è in servizio da 28 anni, non ha visto nulla, quantomeno non si è accorto. Ma io mi chiedo, Iorio, come pensa poi di il nuovo amministratore delegato di giustificare queste posizioni? Beh, allora mi viene un po' da dire una battuta, sono le popolari bellezza, e questa è la gioia delle popolari, nel senso che in modi diversi, con cumuli e danni economici diversi, le popolari sono banche fortemente ancorate al territorio, dove è forte la rappresentanza dell'imprenditoria locale, allo stesso tempo è anche molto basso il livello di responsabilità, perché ogni rappresentante ha un voto, ogni azionista esprime lo stesso peso al di là di quanti soldi ci ha messo dentro, e di conseguenza nessuno ha avuto mai l'interesse a modificare questo sistema, che permetteva di elargire finanziamenti anche, diciamocelo, oltre la possibilità reale e oltre i controlli. Poi, complice la crisi, abbiamo visto cosa è successo: crediti deteriorati che si sono poi trasformati in perdite. Il fatto che il consiglio di amministrazione si sia in realtà migliorato lo stipendio non sorprende nemmeno questo, l'abbiamo 4 visto milioni e 800 mila euro, sì, più 9% negli anni neri. No, ma anche l'ultimo, perché io ho visto, sì, Iorio, l'ultimo, quello che ha portato un in consiglio, milione circa, lui arriva a un milione. No, ma lascia stare Iorio, dico le remunerazioni per il vecchio CDA, certo, Zonin. E quindi Zonin e gli altri consiglieri, se non ricordo male, se vado a rivedere il dato, erano quasi 5 milioni di euro per il 2015, sì. Dove in un mondo normale non dovresti avere nulla, non dico le azioni risarcitorie che prima o poi forse qualcuno farà, ma quantomeno come monumenti, e quindi quello che io ti do, guarda, l'anno in perché cui la banca... Perché non hai azionisti veri che controllano, e di conseguenza la popolare, privo di un vero controllo, al di là del collegio sindacale, che poi anche delle responsabilità, potrebbe avere delle responsabilità di tipo penale, è questo il punto. Appunto, le popolari sono prive di controllo, sono banche dove chi era all'interno del CDA elargiva finanziamenti anche a se stesso, e quindi aveva tutto l'interesse a mantenere lo status quo. In che modo venivano poi camuffati i risultati lo abbiamo visto, venivano dati dei finanziamenti in cambio dei quali, magari gonfiandoli, si chiedeva poi l'acquisto di azioni. Quindi sono banalmente soldi che escono e rientrano sotto mentite spoglie, facendoli emergere in voci di bilancio diverse. Sembrano due partite differenti, ma di fatto sono finanziamenti che io do al signor Rossi e che il signor Rossi poi mi fa tornare indietro, certo, tramite azioni. Allora, ho il traffico. Poi vorrei capire una cosa che giustamente dice un ascoltatore, che il CDA della Vicenza sarà rinnovato a giugno e quindi dopo l'aumento di capitale, quindi adesso pro tempore che senso avrebbe cambiarlo se poi fra 3 mesi lo devi ricambiare. A chi ci dice o ci ricorda che abbiamo avuto ospite Zonin, certo che me lo ricordo, al Vinitaly più di una volta, è 16 anni che siamo in diretta al Vinitaly per parlare di vino. Ciò non toglie che quando scopriamo sta roba non abbiamo nessun problema a parlare delle Zonin banchiere, quindi proprio sensi di colpa pari a zero. Traffico. Focus economia. Allora, sì, rispondo un ascoltatore che dice: no, guardi che anche lei nel 2009 elogiava le piccole banche e se la prendeva con le grandi banche. No, una cosa un po' leggermente diversa. In quell'anno è vero che le BCC, le banche, ressero meglio il colpo rispetto ai timori che si avevano, poi le grandi banche, si scoprì che era una sola, ma era Monte dei Paschi, che si avevano sul timore che le grandi banche si fossero riempite la pancia di derivati, un po' come ha fatto Deutsche Bank, che ancora li ha. Detto questo, chi conosce questo programma, è dal 2007-2006 che facciamo una battaglia modesta sulla trasformazione delle banche popolari. Venne il deputato di Forza Italia, Iannone, se non ricordo male il nome, che fu quello primo firmatario di una legge che doveva riformare le popolari. La risposta che arrivava dal mitico mondo delle popolari era appunto: ma noi siamo legati al territorio, abbiamo rapporti con i soci, giusto che ci sia un voto a testa, un voto capitario. Poi si è capito perché erano legati in alcuni casi, perché in alcuni casi ci sono delle similitudine anche con la popolare Etruria, erano legati ai poteri del territorio, l'incrocio di poteri del territorio. Comunque, Sara Monaci, ha ragione l'ascoltatore di prima nel dire: beh, aspettate, ci sarà un nuovo CDA e cambierà tutto. E le azioni risarcitorie partono o non partono? Ma sulle azioni risarcitorie vedremo, ecco, è tutto in divenire. La questione c'è una questione finanziaria di cui si stanno occupando anche i colleghi, dal punto di vista giornalistico, i colleghi della finanza, e che evidentemente riguarda le questioni di quotazione, di ricapitalizzazione e di rafforzamento dello stato patrimoniale che abbiamo visto in crisi, in forte crisi. E sono d'accordo con te quando dici appunto che la banca va comunque assicurata, perché non assicurarla e dare vita a procedimenti anche di insolvenza diventa ancora più grave anche per chi deve avere dei soldi. Si dovrà andare probabilmente a dei compromessi tra chi ha comprato le azioni e chi vorrebbe poi recuperarle. Dal punto di vista invece dell'inchiesta si dovrà andare avanti, io prevedo che ci siano ulteriori sviluppi e ulteriori responsabilità. L'antitrust aggiunge qualcosa all'antitrust di ieri? L'antitrust dà un valore di tipo amministrativo. Ieri siamo andati sul fronte amministrativo, non su quello penale, però è importante, ci sta dicendo che qui probabilmente alcuni clienti sono stati raggirati, perché si è, o molti, questo lo dovremo vedere. L'antitrust si occupa di garantire la concorrenza e il mercato. La tesi intorno a cui si sono svolte poi queste perquisizioni è quella secondo cui i consumatori sono stati forzati ad acquistare delle azioni e messi con le spalle al muro, non avendo scelta, dovendo chiedere dei finanziamenti per fare mutui, certo, prestiti o quant'altro. Allora, grazie intanto a Sara Monaci. Dopo il GR24 facciamo il punto con un'altra vicenda bancaria, ma che non c'entra niente con la magistratura. Mi riferisco alla prima unica fusione che per ora è allo studio, anzi è sul tavolo, di due popolari di Milano con Banco Popolare. I dubbi di Francoforte ancora non mi sembra che siano uscite agenzie. Comunque rifaremo un punto, poi la borsa e poi l'Europa, nel doppio senso di l'Europa sui migranti e sui nostri conti pubblici. 349-238-6666 per WhatsApp, SMS e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Da Idomeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Focus Economia. E 8 minuti, ci sono delle puntate in cui si concentrano temi analoghi, questa è una di quelle, mi riferisco al mondo bancario, prima con l'inchiesta su Credit Suisse e l'accusa di responsabilità della stessa Credit Suisse, poi sulla Polare di Vicenza, adesso non c'entra niente in questo caso l'inchiesta della magistratura, anzi è preciso che non abbiamo mai detto che tutte le popolari siano uguali, abbiamo solo detto ci sono popolari che sono comportate benissimo, che hanno legami sul territorio, anche le BCC e i crediti cooperativi, ci mancherebbe. Abbiamo detto che continuare a rivendicare la differenza antropologica tra le banche popolari tutte buone perché vicine al territorio, le banche grandi tutte cattive perché più vicine a Wall Street e alla City, era una grandissima balla. Abbiamo visto delle gran porcate fatte nel territorio da banche del territorio, vicine al territorio, però vicine quando si cercava anche o si doveva anche truffare il territorio. Abbiamo visto anche popolari comportarsi bene, cioè smettiamola con questa differenza così ontologica tra la banca se popolare o no, e tanto ormai c'è la legge e tutte diventeranno quelle sopra un certo livello di patrimonio, gli 8 miliardi se non ricordo male, diventeranno SPA. Invece, a proposito di banche popolari, oggi incontro tra il numero uno di Banca Popolare di Milano, e quindi Giuseppe Castagna, e quello del Banco Popolare, Pier Francesco Saviotti, a Francoforte con gli uomini di Mario Draghi. Chiede Luca Davi se si è avuta qualche notizia sulle 24 ore. Luca, buonasera. Buonasera a tutti. Qualche notizia in più e soprattutto quali sono i rilievi o le cose che la Banca Centrale Europea ancora non digerisce per dare via libera all'operazione di fusione. I vertici delle due banche popolari stanno rientrando e quindi nelle prossime ore si inizierà a capire qualcosa di più. Ovviamente poi dovranno comunicare i due manager qualcosa ai loro consigli e poi insomma valutare meglio che cosa fare. L'incontro di oggi era decisivo, questo incontro che è avvenuto con il capo della vigilanza europea che è Daniel Nui, era decisivo perché in queste settimane di continui rimpalli, di continue discussioni con la Banca Centrale Europea, le banche erano convinte di essere arrivate a un punto massimo, di aver fatto tutto lo sforzo possibile per addivenire a un accordo, e questo accordo l'attesa era che insomma dovesse avvenire già nelle scorse settimane. I rilievi della Banca Centrale Europea continuano a esserci, si capirà meglio se nell'incontro di oggi ci sono state richieste correttivi tali che a questo punto le banche possano valutare e decidere in autonomia, probabilmente magari anche di mollare il colpo, oppure se invece qualcosa è in qualche modo si può correggere e a questo punto convocare i consigli e procedere alla fusione. Ecco, però per far capire a tutti, cos'è che non piace la Banca Centrale Europea di questa operazione? La Banca Centrale Europea nella sua tradizionale ortodossia teutonica, così, che è un po' la matrice di fondo, chiede che il gruppo che dovrà essere costruito rispetti una serie di indicazioni che lo portino così a essere ai livelli da top player sostanzialmente. Quello che abbiamo capito noi, per esempio, i tempi di smaltimento del non performing loans. Tra i principali punti sotto osservazione c'è quello dello smaltimento delle sofferenze che dovranno essere cedute, stiamo parlando di un ammontare di 7-8 miliardi nel giro di 2 anni e mezzo, 3 anni, questo è un tema che ovviamente le banche pur con un po' di difficoltà mi hanno accettato. Un altro tema vero che ovviamente è oggi all'ordine del giorno ed è sicuramente sul tavolo della discussione è quello dell'autonomia della futura BPM SPA. Sotto la holding di queste due banche si dovranno fondere, dovrà essere costruita una scatola che manterrà un'indipendenza per 3 anni almeno, non oltre probabilmente, un'indipendenza dell'istituto di Banca Popolare di Milano, e questo ovviamente alimenta una serie di discussioni interne. L'anima interna di Banca Popolare di Milano, come sappiamo, è composita, e io immagino che ci siano anche i vecchi vertici che puntino a mantenere un po' di potere, no? Le tante anime di Banca Popolare di Milano si stanno confrontando, stanno in qualche modo alzando un po' il livello delle richieste. Ieri è uscita sostanzialmente una bozza di una lettera in cui probabilmente verrà richiesta ai vertici di contare di più nelle decisioni, anche perché ricordiamoci che Banca Popolare di Milano, così come il Banco Popolare ed altre banche, ad aprile dovrà andare in assemblea per decidere della trasformazione in SPA. Certo. E questo è il passaggio preliminare decisivo per poi poter avviare la fusione. Se questa SPA, diciamo, non è il passaggio, come dire, che viene in qualche modo accettato, beh, allora tutto il resto diventa molto più faticoso e molto più faraginoso. Sì, non è che possa essere tanto accettato, c'è una legge su questo. C'è una legge, ma c'è, diciamo che fino a fine anno certo, c'è ancora spazio per... Possono votare no, possono aspettando di farlo a dicembre, a quel punto... O minacciare, quantomeno minacciare. A quel punto salterebbe l'operazione con, perlomeno... quest'anno con il Banco Popolare. Grazie intanto a Luca Davi. Grazie a voi. E visto che parlavamo di banca, andiamo sulla borsa, anche se oggi le notizie principali non riguardano necessariamente il mondo bancario. Più 1% Milano, più 0,50 Parigi, più 0,34 Londra, più 0,30 Francoforte, più 0,40 il Dow Jones in questo momento. Euro a quota 1,10. Dicevo, le banche, sì, Banco Popolare oggi perde il 2,70%, la Pop Milano l'1,70, Anima Holding meno 1,80, Buzzinice meno 1,40, Ferragamo meno 1,1 e Ubibanca meno 0,50. Ma la notizia di oggi riguarda Mediaset. Più 6,80%, da qui vorrei partire con Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore. Sì, buonasera a tutti. Appunto, Mediaset è stato il miglior titolo del FTSE MIB, è quello che ha chiuso con un rialzo maggiore e nel corso della seduta era arrivato a salire anche più dell'8%, e ad alimentare gli acquisti sono state le indiscrezioni sul fatto che ci sarebbero in corso delle trattative con il gruppo francese Vivendi per creare una sorta di maxi polo televisivo a livello di contenuti in Europa, e in più diciamo che ad aiutato a porre riflettori un po' su tutto il comparto televisivo anche l'intervista che ha fatto Andrea Zappia, che è il numero uno di Sky, che ha detto che sono pronti a investire in Italia 7 miliardi di euro, quindi magari ci si interroga anche sulla destinazione di questi soldi. Bene invece anche i titoli energetici, ma vedo che adesso il petrolio a New York sta accelerando a $38 al barile, più 4%, questo è l'effetto dell'accordo, anche se in parte parziale, per bloccare le quote di produzione, preso da OPEC e da altri paesi, con la Russia che ha avuto un ruolo da player fondamentale, da soggetto protagonista fondamentale. Eni più 1,13%, Saipem più 2,92%, bene anche Moncler, continua sulla scia dei dati diffusi la settimana scorsa, 3,60%, Unipol più 3,40%, Enel più 3% ed Enel Green Power più 2,50%. Telecom Italia più 1,55%, qui ci sono anche notizie, perché il Presidente del Consiglio ha smentito di aver mai detto di essere felice di una fusione Orange e Telecom. Sì, esattamente, anche se invece dall'altra parte il governo francese avrebbe detto di essere stato favorevole a questa ipotesi, e anche qui diciamo ha giocato come su Mediaset sempre l'asse Italia-Francia, perché ieri il numero uno di Orange ha detto che loro, se Bolloré lo chiedesse, Bolloré è il numero uno di Vivendi che è interessato a Mediaset, ma è contemporaneamente il primo azionista di Telecom Italia, e quindi Stéphane Richard ha detto che se Bolloré lo chiedesse loro valuterebbero una fusione, anche se poi lo stesso manager ha detto che però per ora, secondo secondo lui le intenzioni del presidente di Vivendi non sarebbero queste, anche se tutti comunque gli operatori dicono che l'interesse più grande in questo momento di Telecom è proprio quello su possibili operazioni di M&A. Si era un po' spenta in passato, l'attenzione si era rivolta più ad altri dossier, queste nuove dichiarazioni di Richard di Orange fanno ripartire un'altra volta queste speculazioni su Telecom Italia, anche se poi il titolo questa mattina non riusciva a fare prezzo, era salito quasi al 5%, alla fine un po' ritracciato sul finale, è emersa un po' più di cautela, però appunto comunque il dossier, diciamo, secondo gli operatori rimane quello. Adesso l'attenzione risolta l'Argentina, in attesa di altre novità ora tutti si aspettano di capire veramente se poi una fusione ci sarà o meno. Migliori e peggiori, Media Contact più 13,40, SafeBank più 11,20 e Mediaset appunto. I peggiori, Sintesi meno 11,5, Visibilia meno 5,40, Stefanel meno 4,80% e anche Astaldi meno 4%. Grazie a Flavia Carletti, Radio Corriere sulle 24 ore. Traffico. Focus Economia. L'Europa al bivio greco. Con Radio 24 nel cuore della crisi. Allora, c'è l'Europa bivio greco, in Grecia e oggi la notizia, chiaramente come sanno quelli che hanno ascoltato i nostri GR, è particolarmente forte, ossia anche la Macedonia ha chiuso la sua frontiera, ha detto dopo quello che hanno fatto gli altri paesi, anche noi blocchiamo la nostra frontiera. E questo è il fronte che riguarda il confine appunto Grecia con Macedonia. C'è in questo momento in collegamento con noi una delle nostre due inviate, ed è ad Atene, Valeria De Rosa. Buonasera Valeria. Buonasera a te Sebastiano e agli ascoltatori. Chiaramente scoppia, la Macedonia ha detto che lo fa visto che Serbia, Croazia, Slovenia e Austria avevano già chiuso le loro frontiere. C'è già stata una ripercussione ad Atene dopo la decisione arrivata ieri a mezzanotte praticamente? Allora, devo dirti Sebastiano che in realtà è già da qualche giorno che si nota un ritorno soprattutto di afghani e pakistani nella capitale. Cioè che non ce l'hanno fatta a passare il confine, dici tu. Esatto, ma anche perché comunque di fatto la chiusura della rotta balcanica era già in atto da qualche giorno. E oggi abbiamo notizia che anche alcune famiglie siriane si sono rimesse in cammino per tornare ad Atene, perché a questo punto sarà compito di Atene poi stabilire chi ha diritto di asilo e chi no, e quindi deve essere rimpatriato, rimandato in Turchia e poi dalla Turchia rimandato, certo, nel paese di provenienza. Ecco Valeria, con oggi iniziamo a spostare leggermente il tema, domani ancora di più, sulla capacità di tenuta della Grecia come conti pubblici a fronte di questa emergenza. Sì, anche perché come dicevamo già anche ieri, la crisi dei rifugiati è una crisi che si innesta su una crisi economica che in Grecia è attuale più che mai, perché da molte parti si dice che in realtà in un anno non è cambiato quasi nulla. Abbiamo incontrato il viceministro delle finanze Trifon Alexidias e prima di tutto gli abbiamo chiesto se da luglio, dal momento in cui è stato fatto il referendum, in avanti sono state applicate nuove misure per l'evasione fiscale, visto che Alexidis ha proprio la delega all'evasione fiscale. Ascoltiamolo. Dal 14 agosto sono state prese nuove misure secondo la legge 4336. Le misure adottate le abbiamo messe in un diagramma temporale per il 2015-2016. Con questo sistema abbiamo deciso che cosa si deve fare, quando e chi lo deve fare. Sono misure che il Paese doveva adottare molto tempo fa. Ora stiamo facendo il possibile. Non si tratta di decisioni popolari, quindi per il momento cerchiamo di non pubblicizzarle troppo. Alcune però sono positive anche per i cittadini. Ci può fare qualche esempio? Una delle cose più importanti è aver messo in campo un'anagrafe tributaria. Per ogni persona stiamo raccogliendo tutte le informazioni, in modo informatizzato. Il sistema fiscale greco è iniquo. Ora sono in pochi a pagare e pagano troppo. Poi stiamo lavorando alla tracciabilità dei conti bancari. Sarà possibile risalire ai possessori là dove si può. Un'altra misura riguarda il catasto. Stiamo ultimando il censimento e l'informatizzazione del catasto. Ce lo ha imposto l'Europa. Dobbiamo completarlo entro settembre. Le entrate fiscali sono aumentate o no da quando sono al governo? Dall'agosto del 2015 abbiamo intensificato i controlli rispetto agli anni precedenti e siamo riusciti a far entrare nelle casse dello Stato fra i 500 e i 700 milioni in più rispetto al 2013. Le entrate complessive dello scorso anno sono state in linea con quanto ci aspettavamo. Un risultato che abbiamo ottenuto in un momento, la fine del 2015, che è stato in assoluto il momento peggiore. È preoccupato per l'arrivo della Troica? Assolutamente no, anzi sono contento che siano tornati i funzionari, perché per quanto riguarda la parte fiscale ed economica abbiamo fatto più di quello che ci avevano chiesto. Vogliamo arrivare alla fine della valutazione della Troica per capire come poter andare avanti. Perché non c'è altra strada politica, non c'è altra via, se non la Troica. Dobbiamo arrivare fino in fondo. Chiunque può criticare questo governo, ma deve anche presentare un'alternativa. In che situazione economica è la Grecia? Ci sono tante voci che girano in Europa sulla Grecia. Si dicono tante cose che non sono vere. Abbiamo ancora molti problemi, è vero, ma li stiamo affrontando e risolvendo. Il 2015 è stato per noi l'anno peggiore, poi si è aggiunta anche la crisi dei migranti. Per affrontarla l'anno scorso abbiamo speso 1 miliardo. In Grecia abbiamo un grosso problema con il sistema fiscale. Su 47 miliardi di entrate dovute ogni anno, ne perdiamo tra i 15 e i 20 miliardi. Al momento cittadini e imprese devono allo Stato complessivamente 86 miliardi. Se questo debito fosse azzerato, non avremmo bisogno di prestiti. Allora, qui ci sono già degli elementi, Valeria, che tratteremo in maniera più ampia domani, perché è chiaro che il Vice Ministro delle Finanze getta acqua sul fuoco, però ricordo che a luglio scorso l'accordo con la Troica fu da 86 miliardi di salvataggio. E Atene riceverà gli aiuti solo se rispetterà gli impegni con i creditori. Poi c'è, come ricordava il Vice Ministro nella tua intervista, il tema dell'evasione fiscale e anche della riforma delle pensioni. Però gioco facile a collegarmi da Atene con Bruxelles, dove c'è la mitica Adriana Ceretelli. Adriana, buonasera. Buonasera. Mitica è quello che insomma, l'aggettivo che usano gli ascoltatori, per cui non te la prendere con me, perché oggi l'Unione Europea ha chiesto all'Italia e altri paesi, c'è anche la Finlandia, il Portogallo, il Belgio, la Spagna, ma insomma ha chiarito poco fa che la possibile eleggibilità dell'Italia per flessibilità aggiuntiva sarà fatta in primavera. Però attenzione, si valuterà con particolare attenzione se la flessibilità è usata davvero per gli investimenti, se ci sono i piani di rientro, la deviazione dei progressi sulle riforme. La lettera che ci sta mandando Bruxelles, di cui abbiamo parlato in apertura, quanto delicata è? Perché su questo poi il governo dice non ci sono problemi, l'ha fatto anche oggi il ministro Padoan, l'ha detto anche oggi il ministro Padoan, e però noi dobbiamo dare notizia di lettera appunto sui conti a Italia, Belgio, Finlandia, Croazia e Romania. Naturalmente da prendere sul serio, perché sulla flessibilità e sulle domande di flessibilità italiana c'erano state più volte, diciamo, dei mugugni a Bruxelles, dicendo che certo che la flessibilità viene concessa, ma forse l'Italia esagera nel chiederla. Ma detto questo, secondo me nessuno ha interesse a destabilizzare la situazione in Italia e il governo Renzi in particolare, tanto più in un contesto europeo dove non siamo i soli a chiedere concessioni, dilazioni, eccetera. Però, scusami, c'è la Francia, c'è la... Se ti interrompo, perché c'è un altro passaggio di questa agenzia che stanno uscendo, che dice: la Commissione Europea dice all'Italia, voi deviate dai target anche con i margini, anche utilizzando i margini dei migranti, c'è un rischio di deviazione del percorso che non cambia nel caso voi utilizziate i margini sui migranti. Scusa. Sì, cioè la vera verità è che noi abbiamo deviato rispetto agli impegni, perché noi avremmo dovuto, diciamo, procedere verso quel famoso pareggio di bilancio strutturale e invece l'abbiamo aumentato dello 0,7%, che è una cifra che, diciamo, non è totalmente pari alla flessibilità richiesta, che è una flessibilità dello 0,8%. Quindi In sostanza, Bruxelles dice: vi state prendendo un po' troppo i margini di libertà e di azione. Detto questo, però, e quindi naturalmente poi Bruxelles dice: va benissimo la flessibilità per le riforme, gli investimenti e i migranti, però prove alla mano che gli investimenti siano veri e non siano delle concessioni, certo, di tipo fiscale, che le fatture per le spese sostenute per gli migranti vengano presentate, che le riforme siano attuate e non solo annunciate. Insomma, diciamo, il ritornello di Bruxelles è noto. Detto tutto questo, però, c'è anche la consapevolezza che l'Italia non cresce più di tanto, che senza crescita il debito non si riesce a controllare, e quindi la pressione di Bruxelles è molto forte, tant'è vero che chiedono misure aggiuntive entro il 2015. Per misure aggiuntive però non fanno cifre, dicono semplicemente: presentateci un piano credibile, soprattutto, dico io, aggiungo, ma questo è, fate più riforme attuate, eccetera, eccetera, perché in questo modo ci, certo, potete dare, come dire, la scusa per difendere la flessibilità, perché noi non la chiediamo solo quest'anno, ma la chiediamo, certo, anche l'anno prossimo. Allora, di questo, come dicevamo, ahimè, torneremo a parlare spesso da qua a maggio, anche con la mistica, come dicono alcuni, non mitica, Adriana Ceretelli. Valeria De Rosa, domani tu ci presenterai il fronte anche di chi produce, ho pochissimi secondi, in Grecia. Sì, domani avremo come ospite il direttore generale degli industriali ellenici, e c'è da scommettere che ovviamente punterà molto l'attenzione sulle privatizzazioni, che sono ancora un po' troppo lettera morta in questo momento in Grecia. Allora, grazie da Bruxelles Adriana Ceretelli, da Atene a Valeria De Rosa. Noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Berlusconi, l'auguro di una buona serata. Torna domani Focus, come sempre, dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.